7. Ascolta e controlla. 1. Invitalo per il tuo compleanno. Invitatelo per l'onomastico. Invitiamolo per il fine settimana. 2. Aspettala al bar. Aspettatela a scuola. Aspettiamola in biblioteca. 3. Salutali con entusiasmo. Salutateli con cordialità. Salutiamoli con entusiasmo. 4. Aiutale subito. Aiutatele domani. Aiutiamole dopodomani. 5. Di queste tartine assaggiane una. Assaggiatene quante volete. Non assaggiamone nessuna. 6. Accompagnala a casa. Accompagnatela al centro. Accompagniamola dal medico.